Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Poli legge Pinocchio di Carlo Collodi. Introduzione di Emanuele Trevi. Inizia oggi con la voce di Paolo Poli l'ascolto di uno dei grandi capolavori dell'umanità, Le avventure di un burattino, Pinocchio di Carlo Collodi. Sembra strano dirlo che questo libro abbia anche una data, perché quando uno scrittore raggiunge tali livelli di universalità fantastica e di pure autentico tono mitico, fiabesco, le sue opere sembrano sottratte al tempo e alla storia. Invece la prima volta che viene stampato la storia di Pinocchio avviene in un anno preciso, che è il 1883, e nessuno, a guardare la vita del suo autore, del toscano Carlo Collodi, che è uno pseudonimo, si chiamava Lorenzini, in realtà avrebbe potuto giurare su un tale esito. Non perché Collodi fosse un cattivo scrittore, tutt'altro, è un uomo che incarna in pieno, diciamo, il bene dello scrittore italiano dell'Ottocento, partecipa a due guerre d'indipendenza, è un famosissimo cuoco dilettante e soprattutto ha imparato già a scrivere per i bambini. Scrive libri intitolati Minuzzolo, Giannettino, che oggi, se non ci fosse Pinocchio, sarebbero stati del tutto dimenticati. Il simpatico e bonario Collodi non è uno scrittore ingenuo, è uno scrittore che conosce l'asino d'oro di Apuleio, conosce tante miti, tante leggende, tanto patrimonio fiabesco. Però a un certo punto è come se nella vita di quest'uomo succedesse una specie di miracolo, la capacità di ascoltare questa specie di canto delle sirene, che sono i grandi archetipi dell'esistenza: la morte, la nascita, l'amore e la capacità di trasformazione in vita. Ecco che cosa ci racconta Collodi, e lo racconta, appunto, come tante volte è stato detto, a lettori e ascoltatori di ogni età. Incantati dalla voce di Paolo Poli, gli ascoltatori di Radio 3 piomberanno a ogni età in mezzo a questa specie di luogo di verità assoluta, che pure si presenta con tutte le apparenze del baraccone da fiera. Dicevo il 1883, ma è una data che fa riflettere per quello che riguarda la letteratura per ragazzi, perché è l'anno in cui esce L'Isola del Tesoro di Stevenson. Ecco due libri che sono capaci di creare uno spazio separato, un mondo che non è magico, in quanto avvengono fatti, avvenimenti di carattere sovrannaturale, ma proprio perché è assolutamente separato dall'esistenza reale, eppure di quell'esistenza riesce a dare uno specchio, un'immagine incontrovertibile, invincibile. Entrambe queste storie sono rivolte a dei ragazzi, ma non in senso anagrafico, sono rivolte a quella adolescenza che prosegue in ogni lettore, in ogni ascoltatore, anche adulto. Quindi non si fermano a quel tipo di pubblico della letteratura cosiddetta infantile, ma semmai risvegliano una capacità di infanzia ad ogni nuovo incontro. Che cos'è questa capacità di infanzia? Essenzialmente una capacità di stupore. E che cosa è in grado di destare più stupore che la storia che ci racconta Collodi? La storia della possibilità di una trasformazione, la storia di un pezzo di legno che diventa un bambino in carne ed ossa. Oggettivamente questa è forse la storia più importante che ci si possa raccontare, perché col tono della fiaba e col tono della cosa assurda, Collodi sta parlando di un'esigenza, di un'aspirazione, di una finalità che fa parte della vita di ognuno: la capacità di realizzare il proprio vero sé, di integrare in un'immagine dell'identità qualcosa che sfugge, qualcosa che manca, qualcosa che solo al termine di errori, di disubbidienze. Ricordiamo che le avventure di Pinocchio iniziano proprio nel momento in cui il burattino, dotato del suo abecedario, invece di andare a scuola sente un rumore di pifferi e di tamburi proveniente dal circo di Mangiafuoco e lì inizia l'avventura, inizia quel lungo percorso di sorprese, di delusioni, di trasformazioni che gli consentirà appunto di realizzare questa vera identità. Il pezzo di legno è un bambino in potenza, un bambino che va risvegliato, ma e questo è il bello di questa fiaba, non va risvegliato con una pedagogia di tipo costrittivo, perché semmai è proprio il contrario che lo renderà un ometto, è proprio la disobbedienza, è proprio l'errore, è proprio il tradire le promesse date, è proprio un'irresistibile curiosità della vita che lo trascina lontano da ciò che deve fare. Ecco il paradosso di cui ci parla Collodi, qualcosa che non si deve fare, che diventa poi la materia di costruzione essenziale di quello che si deve essere. E la trasformazione avviene anche se Collodi stesso, a riprova del fatto che certi libri, certe idee, più che venire inventate, vengono ascoltate da chi le scrive, è in dubbio quando per la prima volta pubblica a puntate il suo romanzo in un giornale per bambini, lo finirà con Pinocchio che pende impiccato da un albero dopo aver cercato invano rifugio dal gatto e dalla volpe presso la fatina dei capelli turchini, che però si dichiara già morta e non apre la porta. Sotto quell'ultimo capitolo sulla rivista c'era scritto fine. Pinocchio penzolava impiccato da un ramo e Collodi probabilmente si sarebbe dedicato a qualcos'altro. E che cosa invece trasforma questo libro in una storia di vittoria? Proprio le proteste dei bambini che cominciano a scrivere al giornale dicendo non può finire così, non può morire così. Chi è questa fatina dai capelli turchini che non apre la porta a Pinocchio? E quindi questo grande scrittore riprende in mano il corso della sua fiaba, la trasforma appunto in una vittoria, inventa episodi meravigliosi come quello di Pinocchio che va a cercare Geppetto nel ventre della balena, e inventa una possibilità di riconciliazione tra il bambino disobbediente e la vita. Alcuni dicono che forse sarebbe stato meglio che Pinocchio finisse così, in maniera un po' tragica e surrealista, ma le esigenze della fiaba sono anche quelle dei suoi primi lettori, e dunque con la giusta umiltà che sempre lo scrittore che detiene una forza mitica o la forza delle fiabe, Collodi si rimise all'opera per consegnarci quel capolavoro, quella grande consolazione che oggi tutti conosciamo, appunto la storia di un pezzo di legno disobbediente che diventa un bravo bambino, ma dopo aver conosciuto tutto il male e tutto il bene della vita. Thank you.